giugno. Andrea, confermi, sei rimasto simpatico da giugno o sei cambiato? Ciao, no, spero di confermare la tesi perché mi fa piacere, insomma, che pensi questo di me. Buonasera a tutti. Ciao Andrea. Ciao. Poi davvero, io sono sempre molto contento di passare i tuoi brani perché mi piacciono sempre davvero molto. A giugno avevamo sentito la parte migliore. Oggi invece, esatto, appunto, abbiamo ascoltato Sorrisi altrove. La parte migliore, Andrea, parlava di un rapporto anche un po' conflittuale con la città di Milano, no? Che ti aveva fatto tirare fuori la tua parte migliore nonostante le difficoltà. Invece Sorrisi altrove parla di tutt'altro. Sì, Sorrisi altrove è un ragionamento un po' più generale, filosofico, se vogliamo, no? Nel senso, faccio un po' il punto della situazione su tutto quello che mi è successo fino al momento in cui ho scritto questa canzone, il tutto con la grande speranza del futuro, diciamo, no? Quindi il tema della canzone è un po' quello: partire dal proprio passato per fare il punto della situazione su dove si è arrivati, in modo da buttare le basi per quello che verrà. Ma infatti io leggo nella tua scheda: il rapper ripercorre il suo passato e presente e immagina il suo futuro in base alle scelte prese finora. E dicevo a Giulia, no, le ho letto questa parte qui fuori onda, le ho detto: Gardini, è più o meno quello che succede a me al mattino quando mi sveglio, no? Ripercorro il mio passato e il mio presente, immagino il mio futuro e mi chiedo: ma perché non sono morto nel sonno? Cioè, sempre positivo in maniera, ecco, il nostro Andrea in maniera un po' esagerata. Però anche io, tra l'altro, ho un pessimo rapporto con la mattina, quindi sono vicino. Okay. Soprattutto dove dici in base alle scelte prese finora, io dico: madonna mia, perché ho fatto sta cosa, perché non ho fatto quell'altra. Però tu poi alla fine della canzone, o meglio finito di ascoltare la canzone, no, arriva un messaggio di fiducia verso il futuro. Sì, beh, alla fine è l'unica cosa in cui c'è, nel senso, dato che è inutile cercare di cercare di cambiare ciò che è già stato o di controllare le cose che non si possono controllare, alla fine la cosa più ottimista e più propositiva che uno può fare è cercare di costruire per i giorni che verranno la strada che per ognuno è la migliore. Almeno questo è, secondo me, il modo di intendere e vivere ogni giorno, ed è quello che in parte ho cercato di veicolare. Come sei saggio. Sì, ottimista. Come ti invidio, sei saggio, sei ottimista. Dici queste belle cose, ma le dici per prenderci in giro e neanche tu ci credi o ci credi davvero? No, ci credo veramente, più che altro. Allora, adesso se vogliamo farla un po' più terra a terra, cioè la vita è una rottura di palle. Scendiamo un attimo. Tanto lo sai, ci conosci, lo sai che noi siamo così, noi non facciamo l'intervistina che ti chiediamo del disco, diciamo: è uscito il disco nuovo, cosa farai? La solita domanda, no? Progetti per il futuro. Quando ti fanno la domanda progetti per il futuro vuol dire che non sanno veramente cosa chiederti. Con noi no. Noi invece ti chiediamo, appunto, ma in queste cose che dici ci credi o... No, ci credo. Ci credi. Ci credo. Diciamo che è un modo per affrontare la vita, anche perché poi ognuno decide di affrontarla a modo suo, no? Poi io alla fine cerco sempre di trarre il meglio, allora ho detto traiamo il meglio da ciò che realisticamente si può fare. Poi mi sono fatto tutte le mie seghe mentali, scusate, ho detto seghe mentali, no, diciamo molto di peggio. Okay. Spesso parliamo di seghe vere, non di seghe mentali, ecco. Quindi non c'è problema, peligro. Ognuno si fa i suoi viaggi mentali a modo suo, però mi sono fatto questa riflessione, ho detto: vabbè, mettiamola giù in chiave positiva, anche perché poi sennò tutte canzoni che prendono male, anche no. Hai ragione, dare dei messaggi positivi. Hai ragione. Quando è che hai scritto questa canzone? Guarda, l'ho scritta in maniera abbastanza episodica, nel senso che le strofe mi sono venute di getto. Era primavera, direi inoltrata, stavo girando, per c'è un parco dove vivo io, non so se ti ricordi che ne parlavamo, io vivo in un piccolo paese in provincia di Milano, no? C'è questo parco. E poi ti sei trasferito a Milano, però, giusto? No. Non ancora, la mia vita è a Milano, ma io fisicamente sono ancora un Giorgiana. Ok. Dicevamo. Ok. No, e quindi questa cosa non la ricordavo. Ah, vabbè. Mea culpa. non ti perdonerò mai. Immagino. Maledetto. Facevo un giro per questo parco e non so, in questo paese qua, no? Tutti i ragazzi ci si vedeva nello stesso parco, sulla stessa panchina. Allora la mia testa ha cominciato a viaggiare su determinati momenti, tipo quella panchina di quel parco che per me è iconica, perché tutta la mia vita adolescenziale ruotava attorno a quella panchina. Allora ho cominciato a creare delle immagini, poi da un'immagine è venuta un'altra, poi è venuta la speranza per il futuro, poi è arrivato il ritornello, poi è arrivato Marco Zangirolami che ha fatto quel capolavoro di produzione e questo è il risultato. Senti, sei partito da quella panchina e poi a questo viaggio, no? A ripensare alla tua vita avanti e indietro, perché su quella panchina ti facevi le canne. No. Sì, nel senso un po' tutti, allora non devi rispondere veramente a questa domanda. Non devi rispondere per forza, Andrea, cioè vai tranquillo. I 10 adolescenti tutti ci hanno provato per sapere che cosa vuol dire, no? Io no no, sì, veramente sì. Non anche ci crediamo. È legale? No, ho visto un sacco di gente pungersi con gli spinelli, ho detto no, gli spinelli fanno male. spinelli perché pungono. Senti, ultima domanda, che stiamo andando fuori tempo. Progetti per il futuro? Sono tornato in studio, adesso senti la mia voce come basta. Io ieri ho fatto 12 ore in studio di registrazione, sì? Quindi sono abbastanza sul provato andante a livello vocale, però sto lavorando a roba nuova. Va benissimo, e noi l'aspettiamo questa roba nuova. Grazie Andrea. Grazie a voi. Un abbraccione. Ciao.